Parte terza, la Rivoluzione e la Repubblica di Venezia. Questa parte fu pubblicata nella Revue des Deux Mondes a Parigi il 1° dicembre 1848, la stessa rivista su cui pubblicava anche George Sand. La Rivoluzione di febbraio è stata la prima scena di un dramma continuato poi sulle più diverse ribalte, del quale l'intera Europa attende ancora la conclusione. Agli avvenimenti di Parigi hanno risposto prima quelli di Vienna e di Berlino, quindi il risveglio dell'Italia. La notizia della rivoluzione viennese non si è potuta diffondere nei territori soggetti all'Austria senza far esplodere dappertutto l'insurrezione. Non ci si inganni però, non era soltanto spirito di imitazione a determinare questa sollevazione spontanea degli italiani del nord. Per loro si trattava soprattutto di prevenire il momento in cui, con concessioni liberali, l'Austria avrebbe cercato di contrastare ancora una volta lo slancio delle popolazioni verso l'indipendenza. Questo fu il pensiero che provocò una sollevazione generale, dal Ticino all'Adriatico, e le due rivoluzioni del Veneto e della Lombardia divamparono quasi simultaneamente per la stessa causa. Ho già raccontato attraverso quale serie di disastri la rivoluzione lombarda, cominciata sotto così nobili auspici, sia sfociata nella più dolorosa catastrofe. Meno brillante al suo esordio, meno regolare nei suoi sviluppi, la rivoluzione del Veneto merita, non meno di quella di Milano, l'attenzione e la simpatia degli amici della causa italiana. Ai capi di questo movimento è forse mancata l'abilità, ma non la dirittura. I loro atti, se hanno talvolta offerto il fianco alla critica, non sono mai stati in difetto quanto a fermezza. Forse proprio per questa preziosa unione di fermezza e di dirittura, Venezia, più fortunata di Milano, è riuscita a difendere sino ad oggi, anche dopo crudeli rovesci, la riconquistata bandiera della sua indipendenza. Si dovranno ormai lasciar cadere i vecchi luoghi comuni sul carattere veneziano, questo popolo che passava per il prototipo della spensieratezza, del servilismo, della corruzione sorridente, offre all'Europa un grande esempio. Da 5 mesi sostiene un blocco soffocante. Ogni giorno sente tuonare il cannone, vede le bombe radere le acque sino a qualche passo dalle sue case, privato di ogni risorsa, poiché il suolo su cui vive non può offrirgli nutrimento. Abbandonato dagli alleati ai quali, nella speranza di un soccorso vanamente atteso, si era sottomesso come a padroni, il popolo veneziano non si perde d'animo e si priva dell'ultimo soldo per offrire al governo i mezzi per sostenere lo Stato. Ha rotto con tutte le abitudini, con tutti i ricordi della vita lussuosa e quieta che gli era familiare. Appare risoluto a sopportare tutto, a sacrificare tutto piuttosto che perdere la libertà. Simile spettacolo offerto da Venezia non sarà annoverato certamente tra i fatti meno anomali e strani della nostra epoca. Appunto questa stranezza, a dire il vero, ha contribuito a fuorviare l'opinione pubblica sul conto dei veneziani. All'inizio si sono stati giudicati con una severità che traeva origine da annose prevenzioni. La cattiva reputazione del popolo veneziano gli ha nuociuto in questa occasione. Quando la Repubblica fu proclamata a Venezia, non ci si vide sulle prime che una folle sparata di orgoglio nazionale. Si interpretò l'accaduto come una resurrezione ridicola della vecchia Repubblica di San Marco, con il suo doge, i suoi inquisitori, le sue gondole tenebrose, la sua polizia invisibile. Persino la rassomiglianza del tutto casuale del nome del presidente del governo provvisorio con quello dell'ultimo doge della Serenissima Repubblica fornì pretesto a insinuazioni malevole. Alcuni proclami, indirizzati agli abitanti delle province ionie, parvero diretti contro la dominazione inglese e tesi a restaurare l'antica signora dei mari a spese della potenza incomparabilmente superiore che le è succeduta. Da allora non ci furono sufficiente disprezzo né bastevoli sarcasmi per la povera Venezia. Adesso però i fatti cominciano a essere compresi meglio. Il comportamento di Venezia non ha giustificato nessuna delle accuse affrettatamente rivoltele. È ormai tempo di valutare in modo più corretto i principali atti che hanno determinato e seguito l'instaurazione della nuova Repubblica Veneta. L'esposizione pacata e oggettiva di quegli atti Basterà, spero, a far giudicare con maggior ponderatezza e equità la condotta di Venezia negli ultimi fatti d'Italia. Quando la Repubblica di San Marco scomparve di fronte alla volontà vittoriosa della Francia, il popolo veneziano, sorpreso, non si rese ben conto della trasformazione che stava per compiersi. Il sentimento di nazionalità non era allora fortemente sviluppato in Italia. Niente saldava il governo al popolo, sicché la caduta del primo turbò solo debolmente il secondo. Più tardi Venezia, tra gli stati italiani, fu forse quello che più facilmente venne sospinto verso la trappola tesa nel 1814 dal governo austriaco all'Italia. Quando fu proposta ai liberali italiani del 1814 l'ipotesi di uno Stato indipendente che avrebbe incluso sotto il protettorato d'Austria tutta l'Italia del Nord, Venezia e le province di terraferma ritennero di intravedere per se stesse un avvenire confortevole e onorato. Mai, salvo durante la tregua nota con il nome di pace di Campo Formio, la città aveva conosciuto per esperienza il peso del giogo austriaco e l'arte raffinata con cui la politica del governo di Vienna sa al bisogno stringere i nodi di un'alleanza in modo da farne una catena. Venezia credette ingenuamente che la dominazione straniera fosse rappresentata solo dalla conquista francese e che un governo, che per insediarsi chiedeva la partecipazione della nazione soggetta alla sua autorità, non avrebbe potuto arrogarsi nei confronti di questa nazione i diritti di un vincitore sui vinti. Sta qui il segreto della pronta adesione di Venezia e dei veneziani ai trattati del 1814-1815. E così delle dimostrazioni di attaccamento che il popolo veneziano prodigò alla famiglia imperiale e alla nazione austriaca. Venezia aveva preso sul serio le promesse di Francesco I e di Metternich. La Francia le aveva tolto la libertà, l'Austria si offriva di rendergliela. Venezia accolse con slancio una protezione che non sembrava doversi tramutare in tirannia. L'antica Repubblica di Venezia non aveva abituato il popolo a ingerirsi negli affari dello Stato, né a preoccuparsi di problemi di libertà e indipendenza. Un popolo educato a una simile scuola era un'eredità preziosa per l'Austria. Così questa non trascurò nulla per confermarlo in tale felice disposizione e ci riuscì per parecchi anni. L'energia del carattere nazionale, spezzata da un lungo e circospetto dispotismo, non si era ancora ravvivata. Il popolo non soffriva molto, sobrio e pio come tutti i popoli meridionali dell'Europa, era di pochi bisogni e li appagava facilmente con un lavoro moderato. Le grandi famiglie, d'altra parte, non erano ancora andate via da Venezia, in esilio. Il popolano che aveva ogni giorno l'onore di portare nella gondola, che aveva accolto i loro antenati, Sua Eccellenza Zen o Sua Eccellenza Correr, sino alla gradinata del loro palazzo, non poteva credere alla decadenza della sua patria. Ai suoi occhi, Venezia era sempre la regina dei mari cantata dai poeti e ammirata dai viaggiatori. Per la città nulla era cambiato, dato che nessun segno esteriore denunciava il suo declino. A poco, tuttavia, i segni di declino si moltiplicarono e fu inevitabile crederci. Gli Zen, i Correr, si allontanarono e il loro esempio fu seguito da altri discendenti delle più nobili famiglie. Lontano dai luoghi che testimoniavano la loro passata grandezza, andarono a cercare i mezzi per sostenere un'esistenza mediocre. I loro palazzi passarono in mani straniere, banchieri, principi russi, persino ballerine si spartirono quelle dimore che vantavano memorie gloriose e i capolavori di cui le avevano ornate gli artisti veneti. L'arsenale, ove tante migliaia di operai si erano guadagnati da vivere costruendo navi, approntando armi alla Serenissima Repubblica, presto non fu che un vasto deserto, ove vagabondava sotto la sorveglianza di sentinelle austriache qualche marinaio disoccupato. Non lontano dalla città così decaduta, cresceva una città moderna, protetta in modo speciale dal governo austriaco, verso la quale il commercio, il traffico e la vita che abbandonava Venezia si volsero rapidamente, attirati dai vantaggi che lo statuto di Porto Franco concedeva a Trieste. Trieste era stata dichiarata porto franco già nel 1719, Venezia ottenne la stessa prerogativa nel 1829. Quando questa prerogativa fu estesa anche a Venezia, la corrente vivificatrice si era già stabilita tra il commercio orientale e Trieste e la concessione, strappata dalle rimostranze dei negozianti veneziani, non fece che ritardare di qualche anno la rovina inevitabile e definitiva dell'antica città. Se non mi inganno, quel che ferì al cuore il popolo veneziano fu soprattutto questo impoverimento che ebbe la prima conseguenza l'emigrazione delle antiche famiglie iscritte nel libro d'oro. In una città in cui la monotonia dell'esistenza abbandona gli animi senza svago alla corrente dei propri pensieri e sentimenti, il popolo, errando fra i monumenti della sua gloria e per piazze e callette deserte, cominciò a riflettere sul destino singolare della sua bella patria. Come spiegare, si chiedeva, una caduta tanto rapida? A quali mani colpevoli andava imputata? C'erano ancora vecchi che, nati e cresciuti sotto la Repubblica di San Marco, avevano assistito alla sua rovina. Ben presto si risvegliò nei veneziani un amore profondo per quella madre misconosciuta di cui troppo a lungo si era dimenticata la storia. Chi si è curato qualche volta di interrogare i popolani di Venezia sulla loro antica Repubblica sa con quanta ingenua vivacità si palesasse la loro simpatia per il governo dei Dogi, con quale calore lo difendessero dalle accuse. Non scorderò mai, per parte mia, un curioso esempio del culto dei veneziani per le loro vecchie memorie. Visitavo le prigioni dei Dogi, chiamate i Pozzi, guidate da un custode di età veneranda che si era assunto l'incarico di dimostrarmi che soltanto la calunnia aveva potuto descrivere quelle segrete come luoghi malsani, oscuri e umidi. Eravamo arrivati in una delle cellette più tetre e mi ero fermata a guardare una scritta incisa sul muro, la quale diceva pressappoco così: «Io, sacerdote della Chiesa, langui qui per 17 anni e invoco la morte». La mia guida si accorse dell'effetto che quella scritta aveva prodotto su di me e, imperturbabile nella sua strana apologia, esclamò: «Forse, signora, lei ritiene autentiche queste righe? Si disinganni? È tutta una finzione. Non è mai stato rinchiuso qui quel prete. Il tribunale lo fece fuggire e gli diede di che vivere all'estero. Si è scritto quel messaggio soltanto per far credere alla severità della giustizia e spaventare il popolo. Questa era allora la politica del nostro governo. Lo Stato poggiava tutta la sua forza sull'opinione pubblica. In virtù dell'opinione pubblica si faceva rispettare. Oggi si schierano cannoni in piazza San Marco e dietro i cannoni soldati con la miccia in pugno. Quale dei due sistemi è preferibile?» Mentre lo ascoltavo, non potevo impedirmi di riconoscere che egli esprimeva con pittoresca energia sentimenti che aveva in comune con il popolo veneziano tutto intero. Gli animi erano in questa disposizione quando Pio IX ascese al trono di pietro e riconobbe solennemente i diritti degli italiani all'indipendenza. La polizia austriaca faceva affidamento sulla bonomia e sulla spensieratezza tipiche del popolo veneziano. Così si lasciò trapelare fino alla laguna il racconto delle dimostrazioni entusiastiche che salutavano a Roma l'avvento di una politica nuova. Certe parole sfuggite al pontefice circolarono e furono ripetute con emozione. Uomini che godevano del rispetto di tutti si impegnarono in quel medesimo tempo per illuminare i veneziani sulla portata degli eventi che si compivano nel resto dell'Italia. Le sventure di Venezia, il suo svilimento, la necessità di elevarsi a un'esistenza più degna, i modi per raggiungere questo scopo ancora lontano. Questi furono i temi di un insegnamento che si risolse specialmente ai ceti popolari. Tale insegnamento diede i suoi frutti. Il popolo di Venezia ha un'intelligenza vivace e coltivata. Ogni veneziano sa leggere e legge di preferenza i più fini e i più sublimi dei nostri poeti. Qual è il marinaio o il merceaiuolo ambulante delle lagune che non sappia a memoria i brani più belli di Tasso o di Ariosto o non cerchi di imitarli nelle sue ingenue improvvisazioni? Bastò qualche parola per illuminare sulle loro forze e sui loro doveri uomini così preparati. I veneziani compresero in fretta perché le famiglie che avevano dato lustro alla Repubblica trascinassero in esilio una vita miseranda, perché i loro palazzi fossero passati in mani straniere, perché i viaggiatori che approdavano alla città lagunare si fermassero stupiti davanti alle povere e mediocri botteghe delle mercerie e con un sorriso sprezzante alzassero le spalle, perché l'arsenale non ospitasse che un paio di battelli malandati, perché i negozianti fallissero o andassero a stabilirsi a Trieste. Il popolo colse con uno sguardo tutti questi problemi e la soluzione gli apparve facile. Essa si collegava del resto ai suoi sentimenti più cari, ai rimpianti che destava in lui il semplice nome della sua repubblica. La dominazione austriaca doveva pagare il conto delle sventure di Venezia. L'ardente patriottismo del popolo veneziano non si ritrovava purtroppo presso la classe media, cui sarebbe spettato il compito di istruirlo e guidarlo. Dalla caduta della Repubblica di San Marco, Venezia, relegata in fondo alle lagune, era stata come sottratta a ogni movimento intellettuale, scientifico, commerciale o industriale. Nessuna carriera si offriva quindi all'intelligenza e all'attività dei suoi figli, a che si riduce la schiera numerosa degli uomini di legge laddove la proprietà è paralizzata per mancanza di movimento di capitali, dove nessuna riforma può essere introdotta nel diritto, dove i processi sono in mano esclusiva dei giudici, dove il numero dei contratti scema di giorno in giorno. Gli avvocati non potevano pubblicamente fare le loro difese nei tribunali, ma solo per comparse scritte, sottoposte privatamente ai giudici. Era totalmente arbitrario il modo di procedere contro i sospetti di colpa, segretamente e senza difesa. A che si riducono gli scienziati e i letterati là dove ogni libro straniero è severamente proibito, dove ogni scritto nuovo è soggetto all'interpretazione di un censore che ignora sin la lingua in cui quello è stato redatto? Là dove infine la persecuzione, accanendosi contro i lavori dell'ingegno, restringe nei limiti più angusti l'orizzonte della vita. Questa situazione umiliante aveva esercitato sulla classe media una penosa influenza. Non potendosi elevare a livelli onorevoli in virtù di impegni nella vita pubblica, essa cercò un risarcimento nell'intrigo. La corte del viceré e del governatore fu il suo palcoscenico. Questo atteggiamento di una parte della classe media a Venezia spiega gli errati giudizi che prima del 1848 si davano sull'intera popolazione. Il minimo fatto che riguardasse da vicino o da lontano la famiglia imperiale, il matrimonio di un arciduca, la nascita di un principino, faceva sbocciare in riva alla laguna una risibile messe di odi e di sonetti. I primi scritti in cui si attaccò l'Austria nel nome dell'indipendenza italiana furono accolti per contro da un assordante coro di sarcasmi e di imprecazioni, e ancora, mentre la stampa clandestina lavorava senza sosta per diffondere in tutta Italia i sentimenti di patriottismo e di nazionalità, Venezia sola restava muta. E che io sappia, non nel 1846, non nel 1847, un solo scritto ispirato alle idee nuove uscì dalle sue tipografie per andare a ingrossare l'ondata di pubblicazioni politiche che si riversava in quel tempo sul resto della penisola. Non Venezia, però, lo ripeto, bisognava in questa circostanza accusare di tiepidezza, bensì una parte della sua popolazione che mancava necessariamente di indipendenza, di carattere, perché mancava di indipendenza nella sua posizione sociale. La nobiltà riassumeva in sé gli orientamenti, certo ben distinti, delle due classi di cui ora ho parlato. Tra le famiglie patrizie c'era chi aveva dimenticato il proprio passato e si era curvato senza rimpianti di fronte alla maestà della potenza imperiale. Ancora oggi più di un nome, un tempo illustre nei fasti di Venezia, figura nei quadri dell'esercito austriaco. Ma d'altra parte, quanti nobili veneziani hanno preferito, a onori da pagarsi a troppo caro prezzo, il titolo di maestro di scuola in un villaggio della Francia o dell'America? Quanti hanno nascosto il loro nome sotto uno più oscuro per non destare la curiosità degli indifferenti e esercitano Umili professioni, quanti, meglio trattati dalla fortuna, hanno conservato di che vivere in una mansarda del loro palazzo cadente e si sforzano di dimenticare, nello studio e nella speranza di una vita migliore, i dolori del presente. I Bandiera erano di Venezia e appartenevano a una famiglia patrizia. Il padre era ammiraglio al servizio dell'Austria. Destinati alla medesima carriera, i due figli furono educati nel collegio della Marina Istituzionale Italiana, in un paese soggetto all'Austria, è rimasta del tutto al riparo da influenze straniere. Forse a questa educazione di impronta tutta nazionale si deve l'esaltazione generosa di cui i giovani fratelli Bandiera furono vittime. Entrati assai presto nella Marina austriaca, non tardarono a iscriversi all'immensa associazione conosciuta con il nome di Giovane Italia. La triste e breve storia della loro spedizione in Calabria è stata spesso narrata. In ogni modo, i Bandiera persistettero nel loro progetto. L'uniforme austriaca era un peso e corsero al martirio. Gli ultimi particolari di questa triste storia non sono i meno commoventi. Il padre delle giovani vittime inviò le sue dimissioni all'imperatore e diventò immediatamente oggetto della più solerte malevolenza governativa. Quanto alla madre, le fu detto che i figli erano morti, scaraventati in mare dalla tempesta. Quando simili catastrofi colpiscono una famiglia del luogo, illustre o quantomeno molto nota, il popolo subisce un contraccolpo violento e qualcosa di solenne, di rispettabile e di sacro sembra effondersi su tutto quello che in qualche modo la riguarda. Così la morte dei Bandiera parve togliere alla nobiltà veneziana quell'aura di frivolezza che l'aveva contraddistinta sino ad allora. Il popolo considerò con più rispetto la nobiltà e questa si sentì come resa più grande da tutta la sventura e da tutto l'eroismo che avevano segnato il destino di alcuni dei suoi. Due nobili veneziani erano stati protagonisti in una scena tragica. La nobiltà di Venezia indossava, per così dire, la toga virile. Si riunì proprio a Venezia nel settembre del 1847 il nono congresso degli scienziati italiani. Sintomi minacciosi cominciarono da allora a mostrare quanto fosse mutato in pochi anni il sentire pubblico. Il modo sommario e brutale con cui furono allontanati il principe di Canino e il suo segretario Masi, i quali si erano recati al congresso passando tra le ovazioni del popolo, suscitò l'indignazione generale. Due uomini, tra gli altri, si prepararono da quel momento alla lotta. Due uomini che, una volta imboccata la via dell'opposizione, non sarebbero più tornati indietro. Tommaseo e Manin. Manin è un avvocato che si segnala per ingegno e probità. La prima occasione in cui si rivelarono la sua eloquenza e il suo patriottismo fu data dall'incredibile provvedimento in forza del quale la ferrovia Venezia-Milano, costruita per metà a spese dei Lombardo-Veneti, doveva passare in mano dei viennesi e sotto la loro direzione. E questo senza che fosse concesso alcun risarcimento ai vecchi proprietari spogliati dal decreto imperiale. Appunto, all'Assemblea Generale degli Azionisti, Manin difese gli interessi italiani coinvolti nella vicenda e propose di organizzare contro le pretese dell'Austria una resistenza legale. Gli azionisti, persuasi in anticipo dell'inutilità di ogni opposizione, non condivisero il parere del coraggioso oratore, ma conservarono tutti il ricordo della sua parola energica e brillante. Venezia aveva ascoltato Manin con una gratitudine che si riservava di provargli più tardi. Tommaseo, nato in Dalmazia, non è soltanto, come Manin, un ardente patriota, è un pensatore e uno scrittore di élite, una religiosità tollerante, un'immaginazione vivida e poetica, una vasta erudizione si uniscono in Tommaseo a un nobile carattere. Manin aveva protestato contro l'Austria in nome degli interessi materiali dell'Italia. Stava a Tommaseo assumere la difesa di quelli morali e lo fece, cogliendo l'occasione offertagli dalla riunione del congresso per tentare un passo di cui la dotta assemblea non osò purtroppo condividere la responsabilità gloriosa. Si trattava della legge austriaca sulla censura. Questa legge non avalla nessuna delle vessazioni cui l'attività intellettuale è soggetta nell'impero. Parecchie sue norme sono anzi abbastanza tolleranti, ma come sempre succede, nel Lombardo-Veneto le parti liberali della legge sono eluse e il magistrato si limita a osservare con zelo eccessivo quelle restrittive Nella memoria, indirizzata al potere centrale, Tomaseo chiedeva che fossero rimesse in vigore le disposizioni liberali della legge sulla censura. Aveva fatto chiedere nel medesimo tempo agli scienziati del congresso, riunito a Venezia, l'appoggio della loro adesione. Le loro firme, apposte in fondo alla memoria, avrebbero dovuto costituirne la prova, ma il congresso respinse questa proposta senza neppure discuterla. L'onore del suo passo coraggioso restò, dunque, tutto intero a Tommaseo. Il tentativo fatto da Niccolò Tommaseo di portare quel congresso scientifico sulla strada dell'opposizione legale fu rinnovato poco dopo da Manin nei confronti di un'altra assemblea, per sua natura più idonea a un ruolo politico. Nazari, deputato della provincia di Bergamo alla Congregazione Centrale Lombarda, aveva proprio allora presentato ai suoi colleghi un progetto di rapporto e petizione tendenti a reclamare dal governo austriaco l'esecuzione delle promesse del 1814 e di certe leggi liberali cadute in desuetudine. Manin decise di seguire, rivolgendosi alla Congregazione Centrale Veneta, l'esempio dato a Milano da Nazari. Egli fece giungere all'assemblea veneta virili e severe parole che non trovarono eco in quell'auditorio. Troppo poco uso ancora a un linguaggio simile, ma furono accolte con gratitudine da tutti gli amici illuminati della causa italiana. Dopo questo duplice tentativo fatto al congresso scientifico e alla congregazione centrale, Manin e Tommaseo compresero che occorreva mettersi in rapporto più diretto con la popolazione e lì cercare il punto di appoggio che i corpi istituzionali negavano. Ma quella popolazione era ben conosciuta? Chi poteva rispondere della sua fermezza e della sua energia? A prendersi l'incarico di sondare il terreno a proprio rischio e pericolo fu ancora Tommaseo. La cerchia dell'Ateneo di Venezia fu la nuova arena che Tommaseo scelse come terreno più favorevole per dare inizio alla sua lotta pacifica. L'Ateneo di Venezia è, come tutte le istituzioni del medesimo nome, un centro di riunioni e cerimonie letterarie. Là, appunto, il 23 dicembre 1847, Tommaseo si recò a illustrare la sua proposta per la legge sulla censura. Il suo discorso mirava a far reclamare, con una petizione da redigersi e firmarsi seduta stante, un'applicazione più liberale della legge. L'onore della nazione, disse concludendo, richiede un atto, più atti di coraggio civile, dai quali l'opinione pubblica venga in modo chiaro e concorde manifestata. Atti tali saranno sorgente di inesauribili benefici. Il tempo stringe, i governanti lo sanno. Invece di spaventarsi o sdegnarsi di questo o di simili atti, ci stimeranno. Il silenzio in tale frangente sarebbe peggiore minaccia. Abbiamo taciuto abbastanza e qui c'è vero coraggio, perché qui, più che in altra parte d'Italia, è pericolo alzar la voce. È per questo che io alzo la voce e abbandono per poco la mia solitudine diletta e fo forza all'indole e agli abiti miei, e vi prego, veneziani, di accogliere la mia parola fraterna con quell'affetto che me la esprime dall'anima, stanco o umiliato da crudeli e facili dispregi perché qualche italiano osa versare su di voi. Mi sono fatto mallevadore che i veneziani conservano la memoria di se stessi, che qualunque sia l'avvenire sapranno meritarlo onorato. Per comprendere l'effetto di queste parole bisogna tener presente l'indole di chi le pronunciava. Non era né un focoso demagogo né un cospiratore avventato, era un uomo grave, rispettato, a ragione, dal cui volto traspariva la dedizione a studi austeri. Tutto recava nel discorso di Tommaseo il sigillo della riflessione e della ponderatezza. Nulla vi denunciava impeto e collera, così lo stupore timido che si era dapprima impadronito degli auditori lasciò ben presto posto a una rumorosa simpatia. A stento l'oratore poté terminare, tanto il pubblico era impaziente di testimoniargli la sua adesione e di condividere i pericoli della sua iniziativa, e quando, dopo un breve silenzio, Tommaseo, tendendo la mano su un foglio bianco messo sul tavolo, disse all'assemblea: «Io propongo di firmare subito l'istanza di cui ho parlato. Lo volete?» Il grido fu di unanime assenso. La lettura dell'istanza fu allora data da Tommaseo e le molte firme che le furono apposte quello stesso giorno e nei giorni seguenti provarono che la popolazione di Venezia aveva inteso l'appello del patriota dalmata. La serie degli scacchi era chiusa. e nuovi successi dovevano far seguito al primo. La congregazione municipale impegnò la congregazione centrale a reclamare dal potere la revisione o almeno la fedele esecuzione in tutte le sue parti della legge sulla censura. Questa legge diventava un'arma potente di resistenza legale all'Austria. Chiederne la fedele esecuzione era trincerarsi in limiti assai stretti per non lasciare al potere nessun motivo valido di rifiuto. Così la maggioranza della popolazione concentrò anzitutto i suoi sforzi su quella questione, non perché fosse la più importante di tutte quelle che c'erano da risolvere, ma perché si prestava di più a un dibattito pacifico.